Capitolo 9. La domenica della mostra. L'ultima domenica di marzo era la domenica della mostra e Frank, che era un amante delle feste, aveva invitato tutta la gente che conosceva a Londra ad andare a visionare i quadri suoi del signor Oakley prima che fossero spediti alla Royal Academy. Il signor Oakley era un bohemien di mezza età che aveva riscosso un discreto successo in gioventù e non era mai andato oltre. Era stato sufficiente comunque a lanciarlo nel mondo dell'arte ed era probabilmente solo grazie al sostegno dei suoi fratelli di pennello che tutto sommato era capace di vendere i propri quadri. Oakley era un nome accettato, nulla di più. I critici lo trattavano con rispetto, seppur non lo osannavano. Gli organizzatori delle mostre lo facevano esporre, sebbene non certo in prima linea, e il pubblico comprava i suoi quadri, che avevano il vantaggio di avere un prezzo moderato e di portare una firma che tutti conoscevano. Sicuramente questo sconosciuto figlio della terra aveva una moglie e una famiglia ed era stato più che contento di condividere le spese del suo studio con il giovane Jermyn, il cui padre, un uomo di chiesa della Cornovaglia, era stato un amico di gioventù. «Mi chiedo», disse Gertrude mentre le Lorimer si stavano preparando per la festa di Frank, «se ci sarà parecchia gente del bel mondo oggi pomeriggio». E guardava mestamente il rattoppo sul suo stivale, con l'umiliante ricordo dell'occhio vigile di Darrell. «Non credo proprio», rispose Phyllis. I suoi graziosi piedini erano invece appropriatamente calzati. «Lo sai che persone trasandate si incontrano dagli Oakley? Ah, sicuramente ne conoscono di altro genere, ma per un motivo o per l'altro non le frequentano». «Allora ci saranno i conoscenti del signor Jermyn», disse Lucy esaminando i propri guanti con cipiglio. «Un sacco di ragazze graziose e ben vestite, senza dubbio», rispose Phyllis. «Mi aspetto che un giovane così amabile abbia una moglie in ogni porto, o almeno una ragazza in ogni sobborgo». «A proposito», disse Gertrude, «chissà se Devonshire ci saranno. Non mi è sembrato di vedere Connie in questi giorni». «Non è un po' uno strappo all'amicizia», rispose Phyllis perspicace, «quando due gruppi dei nostri amici fanno conoscenza e sembrano preferire l'un l'altro a noi, vecchie, devote e fidate amiche di ciascuno di loro?» «Che cose orribili dici talvolta, Phyllis», obiettò Lucy mentre le tre sorelle scendevano insieme le scale. Fanny non era con loro, stava trascorrendo la giornata con qualche parente di sua madre. Una strana e vaga sensazione colse Gertrude nel ritrovarsi per una volta di nuovo in una stanza piena di gente e, come si dice che un cavallo da guerra si eccita nell'udire lo squillo della battaglia, allo stesso modo sentì l'istinto sociale elevarsi con forza dentro di lei, mentre il familiare e oramai dimenticato spettacolo di cenni, segni e sorrisi intrecciati le scoppiava davanti. Frank attraversò velocemente la stanza, come una freccia scoccata dall'arco, quando le Lorimer fecero il loro ingresso. «Come siete in ritardo? Stavo cominciando a temere che non sareste venuta affatto». «Quanto è piacevole tutto questo», disse Lucy con dolcezza. «Quei grandi vasi d'ottone con i narcisi sono incantevoli e che folla impressionante!» Connie le raggiunse, splendida come sempre, ma con un lampo di inquietudine negli occhi e un innaturale rossore sulle guance. «Come state, ragazze?» disse bruscamente. «Sembri abbattuta, Gertie». Poi, quando Frank si allontanò per portar loro del tè, «Come odio gli eventi pomeridiani, e voi no?» «Come sembra affascinante, Frank!» bisbigliò Phyllis a Lucy. «Mi piace guardarlo lanciarsi avanti e indietro fra la gente, come se la sua vita dipendesse da questo, non trovi?» E il narciso sulla sua giacca si addice perfettamente alla sua carnagione. «Phyllis, non essere così frivola!» Lucy trattenne un sorriso, ma i suoi occhi seguivano con un certo divertimento la figura pittoresca e dinamica del suo ospite, mentre adempieva i suoi doveri con la sua abituale aria seria e il suo candore. «Venite a guardare i quadri, Lucy. È questo il motivo per cui siete qui, lo sapete», sottolineò Fred, che si era unito al gruppo e appariva come la perfetta incarnazione della avvenenza filistea. «È una vita che non vi vedo», aggiunse, mentre si dirigevano verso uno dei cavalletti. «Ed è vostra la colpa o sbaglio?» disse Lucy con leggerezza. «Connie si è messa in testa che non vi interessa frequentarci». «Come può essere così sciocca, Connie? Non ditele che ve ne ho parlato, andrebbe su tutte le furie», aggiunse mentre Phyllis e Constance venivano spinte nella folla verso di loro. Gertrude era ancora in piedi vicino all'entrata a sorseggiare il suo tè e a guardarsi intorno con un certo ansioso interesse. Aveva adocchiato qua e là volti familiari, volti del suo vecchio mondo, quel mondo che, preso in massa, aveva così fervidamente detestato. Ma nessuno si era interessato a quella giovane donna sulla porta con il viso pallido e uno scolorito abito nero. «Sembra di essere un fantasma», disse Frank quando gli porse la sua tazza vuota. «Sembrate terribilmente debole», rispose lui con sincera preoccupazione. «Vorrei che foste in salute, come le vostre sorelle, come la signorina Phyllis, per esempio». Mentre parlava, guardava con evidente ammirazione in direzione della giovane esile figura e del viso in fiore della ragazza, che stava sorridendo con amabile indifferenza in direzione di una delle sue tele. Phyllis Lorimer apparteneva a quel raro ordine di donne, la cui bellezza è assolutamente indipendente da ciò che indossano. Accanto al suo vecchio vestito nero e al suo cappellino logoro, l'elaborato abito primaverile di Constance Devonshire sembrava grossolano e inopportuno, e Constance stessa, al cospetto della bellezza più delicata della sua amica, pareva bourgeois e sfiorita. L'effetto di tale contrasto non venne ignorato da due uomini che a questo punto della serata girovagavano nella stanza e ai quali gli Oakley vennero incontro con un certo empressement di riceverli. «Vi ho portato Lord Watergate, Gertrude», sentì dire uno di loro con una voce che immediatamente riconobbe, il suono della quale la riempiva di una vaga sensazione di disagio. «Darrell, è assolutamente magnifico», disse Frank sottovoce con gli occhi che brillavano per l'entusiasmo. «Lì, con quella barba alla Van Dyck, appena accennata, ma lo conoscete già». «Non è una propria mostra della domenica», replicò Gertrude con un tono che tradiva quanto desiderasse che l'avesse. «Ha una galleria tutta per sé in Bond Street questa stagione. Mi domando se canterà questo pomeriggio». «Il signor Darrell è una persona dai molteplici talenti, a quanto pare». «Oh, altro che!» E Frank andò a porgere un cordiale e umile benvenuto all'illustre ospite. Sidney Darrell, dopo essere riuscito a sfuggire agli Oakley e al loro tavolo da tè, camminava per la sala, sostando qui e là per scambiare un saluto con gente che conosceva, muovendosi con quell'ostentata aria di mancanza di scopo che è spesso assunta in società, per mascherare un piano premeditato e intenzionale. «Come state, signorina Lorimer?» si fermò di fronte a Phyllis e le tese la mano. Il fresco viso di Phyllis si illuminò a questo riconoscimento da parte dell'illustre personaggio. «Ebbene, non trovate che questa sia l'istituzione più ridicola sulla faccia della Terra?» chiese Darrell mentre prendeva posto a fianco a lei, dal momento che Connie si era allontanata discretamente al suo avvicinarsi. «Quale istituzione? Il tè? I quadri? La gente?» «La loro incongrua combinazione sotto il nome Mostra della Domenica». «Io la trovo divertente. D'altra parte c'è da dire che non ho mai visto una cosa simile prima d'ora». «Siete veramente da invidiare, signorina Lorimer». «Com'è incantevole, Phyllis!» esclamò Connie, che aveva raggiunto Gertrude vicino all'entrata. «Diventa ogni giorno più bella». «Lo pensi davvero?» rispose Gertrude. «A me sembra più fragile che mai, con quel rossore sulle guance, con l'occhichio negli occhi». «Che assurdità, Gertrude! Sei proprio ridicola riguardo Phyllis. In ogni caso, pare che sia una piacevole compagnia per il signor Darrell. Sa fare conversazione esattamente come usa fare il signor Lorimer. È quella che gli assomiglia di più fra di voi». «Sì». Gertrude fu attraversata da un brivido, poi alzando lo sguardo vide il signor Oakley, un uomo alto in piedi davanti a lei. «Lord Watergate, la signorina Lorimer». Gli occhi grigi guardarono dritti nei suoi e una profonda voce disse: «Ci siamo già incontrati». «Ma non avevo l'ardire di considerarmi una vostra conoscenza». Lord Watergate sorrideva mentre parlava e con un certo sollievo Gertrude sentì che qui, almeno, era una presenza amichevole. «Ci siamo incontrati a Sycamores, mercoledì, se di incontro si può parlare. Quel quadro di Darrell è stupefacente». «Sì, Oakley mi stava raccontando del notevole successo in campo fotografico vostro e delle vostre sorelle. Non saprei se è un successo», disse Gertrude. «Sembrate così stanca, signorina Lorimer. Lasciate che vi trovi una sedia». «No, vi ringrazio, preferisco rimanere in piedi. Si può osservare il mondo molto meglio». «Vi piace osservare il mondo?» «Sì, è sempre interessante». «Devo presupporre che siete un amante della società. Una cosa è collegata all'altra?» «No, ho semplicemente azzardato l'ipotesi». Sì, è molto esigente con i giochi a cui si prende parte, disse Gertrude, nei rapporti sociali si sta sempre a pensare a quanto potrebbero essere meglio gestiti. Entrambi risero. Dunque, qual è la vostra società ideale, signorina Lorimer? Una società senza classi, caste, famiglie, ma fatta di singoli individui. Ritengo che tendiamo sempre più verso una simile società, quantomeno a Londra, disse Lord Watergate, poi aggiunse. Siete una democratica, signorina Lorimer. E voi siete un ottimista, Lord Watergate. Io sfuggo alle definizioni. Ma lasciamo perdere queste vicendevoli recriminazioni per il momento e magari potreste dirmi chi è la signora che sta conversando con Sidney Darrell. L'attenzione di Lord Watergate era stata improvvisamente catturata da Phyllis. Gertrude notò che la stava guardando con gli occhi spalancati. È una delle mie sorelle, disse. Trasalendo, si voltò verso di lei. C'era una nota di imbarazzo nel suo tono quando disse: È molto bella. Cosa c'era nella sua voce, nel suo volto, che d'un tratto fece balenare nella mente di Gertrude la visione della donna defunta, i suoi capelli dorati, la sua bellezza esangue? Phyllis, dal canto suo, si era accorta del fugace ma intenso sguardo che gli occhi grigi avevano lanciato su di lei dall'altro lato della stanza. Chi è l'uomo che sta parlando con mia sorella? Chiese. Darrell guardò dall'altra parte freddamente e rispose: Ah, quello è Lord Watergate, il famoso fisiologo. Non ho mai incontrato un Lord prima d'ora, e dopo tutto questo non ha molto di un Lord, perché il nobile è stato quasi del tutto assorbito dall'uomo di scienza. Oakley si avvicinò, pregando Darrell di cantare. Ma non è piuttosto fuori luogo oggi? Oh, noi non pretendiamo di essere alla moda. Questa non è una mostra della domenica pura e semplice. Ma solo un pretesto per vedere i propri amici. A proposito, disse l'artista, intanto che Oakley era andato ad aprire il piccolo pianoforte, è di qualche utilità che vi consegni i bozzetti questa settimana, sebbene sia un terribile momento per parlare di lavoro. Dovete rivolgervi a mia sorella per questioni simili. Oh, vostra sorella è di gran lunga troppo scaltra per me. Gertrude è scaltra, ma non nel senso che intendete voi. Nondimeno ho una gran paura di lei. Darrell passò al pianoforte e cantò una breve canzone francese con perfetta maestria nella sua profonda estensione baritonale. Gertrude lo osservava mentre era lì seduta ad accompagnarsi da solo e venne colta da un indefinibile terrore per quell'individuo apparentemente irreprensibile che faceva tutto alla perfezione, la cui quieta presenza la rimandava a una forza incommensurabile, perché sconosciuta, e che lei sentiva, ricordando con profonda indignazione la fredda ironia del suo sguardo. Non avrebbe mai potuto in nessuna circostanza venir fatto apparire ridicolo. Al termine della canzone, Phyllis si avvicinò a Gertrude. Non è ora che andiamo, Gertie, disse. Non è d'uso far serata così. Si suppone che dovremmo giusto guardarci intorno e prendere il largo per una mezza dozzina di altre gallerie. Lord Watergate, che era lì vicino, colse le parole per metà bisbigliate e sorrise, come si sorrise alle assurdità di un grazioso bambino. Gertrude notò l'espressione sulla faccia mentre rispondeva: Sì, è ora di andare. Chiama Lucy. È lì con il signor Germin. Darrell le raggiunse mentre se ne stavano andando e strinse la mano prima a Gertrude e poi a Phyllis. Grazie, disse a quest'ultima per il piacevole pomeriggio. Entrambi, lui e Lord Watergate, si trattennero a York Place. Fino a che se ne furono andati gli altri ospiti, poi ricoprirono Frank di domande sullo studio fotografico. Non sembra che sia redditizio per loro, commentò Darrell con l'aria di voler smorzare il leale entusiasmo di Frank. Mi domando, disse Lord Watergate, se sarebbero disposti a preparare qualche lastra per me. Per le lezioni della Royal Institution? Darrell sedeva al pianoforte mentre parlava e faceva scorrere le sue mani sui tasti. È una creatura affascinante, Phyllis. Affascinante, esclamò Frank, e lo è anche la signorina Lucy. E Gertrude è affascinante pure. Lei è la più brava. Oh sì, Gertrude è la più brava. Si vede dai suoi stivali. Frattanto le Lorimer e Devonshire stavano camminando insieme verso Baker Street, impegnate a loro volta a chiacchierare delle persone dalle quali si erano appena separati. Sei in errore, Gertie, nei confronti del signor Darrell, reclamava Phyllis. È molto cortese, è veramente simpatico. Quale? Il tipo con il pizzetto di capra? Disse Fred. Oh, Fred, la sua meravigliosa barba lavandig. Non mi importa, lui non mi piace. Nemmeno a me, Fred, dichiarò Gertrude con decisione, mentre l'intera compagnia svoltava il numero 20B e saliva in salotto. Trovo davvero che tu sia un tantino irragionevole, disse Lucy, circondando con un braccio la vita della sorella. A me sembra una persona abbastanza piacevole. Sembra, intervenne Connie parlando per la prima volta, come se intenda avere il meglio di ogni cosa, ma lo fa anche la maggior parte di noi. Ma, si lamentò Gertrude, non calpestando le altre persone. Ah, voi state tutti ridendo di me. Ma come ci si può aspettare che pensi bene di un individuo che ti fa sentire uno zotico dalla testa dura? E loro risero più che mai alla bizzarra immagine evocata dalle sue parole. Poi Phyllis rimarcò con spirito critico. C'è una sola cosa che non mi piace di lui, e sono i suoi occhi. Detesto particolarmente quel genere di occhi, sporgenti. Con le palpebre pesanti e quelle piccole gonfie borse di sotto. Phyllis, risparmiaci queste descrizioni realistiche, protestò Lucy, e lasciaci mettere da parte il signor Dale, almeno per ora. Forse la nostra riverita accompagnatrice ci racconterà qualcosa della sua conoscenza con un certo lord di nobili natali, aggiunse, mentre metteva sul suo abito con un sorriso di gratitudine la gardenia che Fred si era tolto per offrirle. È stato veramente cortese da parte sua, disse Gertrude con aria riflessiva, farsi presentare dal signor Oakley, se non altro per dimostrarmi che la mia vista non lo seccava. Mi piace il suo viso, aggiunse Lucy, ha qualcosa di fanciullesco. Ricordate quel che dice del vecchio dottore in Jack? La science l'avait gardé naïf. Che gruppo di pettegoli siamo! Esclamò Connie che aveva preso poco parte alla conversazione. Andiamo, Fred, sai che ceniamo dei Grey questa sera? Uffa, certamente avranno intenzione di affibbiarmi Nelly per intrattenerla, brontolò Fred, che come molti del suo sesso diventava estremamente pudico quando venivano coinvolti i suoi sentimenti, ma adorava credere che una gran quantità di donne facesse progetti su di lui. Non troviamo mai niente al mondo da dirci. Ecco il signor Jermyn, osservò Phyllis mentre la porta veniva chiusa dietro i due fratelli. Aveva accennato che sarebbe passato qui questa sera. Lucy, che era seduta poco distante dalla finestra, si permise di alzare lo sguardo e sorrise mentre commentava. Sembra che sia passata una vita da quando eravamo solite domandarci di lui e lo chiamavamo l'uomo di Connie. L'uomo di Connie, aggiunse Phyllis arricciando le sue graziose labbra, al quale di Connie non importa un fico secco.